tanti anni che sono sul mercato, abbiamo avuto la possibilità di assistere fin dall'inizio alla crescita di questo prodotto che è stato quotato nel settembre del 2002. Come tante altre cose, questi prodotti non sono arrivati in Italia per primi, erano già presenti dal 2000 su altre piazze finanziarie, per cui quando sono arrivati probabilmente non tutti pensavano che avrebbero avuto il successo di cui stiamo parlando oggi. Basta alcuni dati: 2002 quotati 4 ETF, 3 più 1 subito di conseguenza, tra cui l'indice all'epoca si chiamava S&P 40, ah sì, l'S&P MIB, sì, poi è diventato, diventato il FTSE MIB. E più altri ETF che erano sugli indici principali europei, tipo l'Eurostoxx e quant'altro. Ma la cosa che, così anche per ricordare appunto agli ascoltatori di cosa parliamo, in maniera molto semplice parliamo di fondi indicizzati che sono armonizzati in base alla normativa europea e sono quotati e negoziati come le azioni sulla piattaforma di Borsa Italiana, per cui replicano l'andamento di un indice sottostante. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente uno dei motivi del successo che c'è stato di questi prodotti, della crescita di questi prodotti sul mercato, è stato dato dal fatto che la semplicità del funzionamento di questi prodotti e il fatto che anche un investitore cosiddetto privato, retail, potesse prendere un'esposizione magari su un indice o su un paniere di indici magari con di sottostanti. Faccio un esempio, paesi emergenti, che difficilmente con altri prodotti avrebbe potuto fare in maniera così efficiente e a costi contenuti.